Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Perché il nostro partito sta attraversando una fase meravigliosa. Quando perdevamo, ci dilettavamo nell'analisi del voto, una sorta di terapia di gruppo del giorno dopo, alcolisti anonimi che si ritrovano e fanno l'analisi del voto, no? Così dice Renzi in campagna elettorale. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, che ormai nel pieno questa campagna elettorale degli alcolisti anonimi, quando il PD perdeva, dice, adesso vedremo insomma al voto finale che cosa succederà. Parleremo naturalmente moltissimo di questa campagna elettorale e faremo il punto delle varie questioni politiche di questa settimana, compresa anche la questione dell'immigrazione, compresa quella delle pensioni, una novità che riguarda l'IVA, cercheremo di capire bene di cosa si tratta, e poi andremo anche sulla questione del giovane marocchino arrestato con l'accusa di essere uno del comando che fece la strage al museo di Tunisi, e poi approfondiremo anche in specifico quell'argomento. Poi parleremo del meteo, ci sono insomma moltissime notizie in chiusura di settimana come sempre, e vi chiedo di esprimere il vostro parere a proposito di campagna elettorale, di elezioni regionali che ci saranno il 31 maggio, attraverso i soliti canali che sono la pagina Facebook di Effetto Notte, gli sms al 349 238 6666, di commentare questa frase, questa interpretazione di Salvini per quanto riguarda le regionali. Dice: il 31 maggio, quando si vota, non è un voto ma un referendum tra chi vuole l'immigrazione e chi non la vuole. Siete d'accordo su questo? Anche perché poi sarà un altro dei temi che approfondiremo qui a Effetto Notte, questo dell'immigrazione, perché compaiono i primi numeri in questo piano dell'Europa per l'emergenza immigrazione, quanti profughi dovranno essere trasportati e redistribuiti dall'Italia in altri paesi europei. Quindi dice Salvini: il 31 maggio non è un voto ma un referendum tra chi vuole l'immigrazione e chi non la vuole. 349 238 6666 per i vostri messaggi, oppure la pagina Facebook di Effetto Notte. Ma facciamo in fretta perché vi devo raccontare un sacco di cose. L'Unione Europea boccia la manovra sull'IVA, si rischia un buco da 700 milioni, ma il Ministero assicura non scatterà l'aumento della benzina. Il marocchino arrestato per la strage del Bardo, dalla cella Twill ribadisce la sua innocenza. Immigrazione, il piano dell'Unione Europea sulla redistribuzione dei migranti prevede che in 24.000 dovranno lasciare l'Italia. Arabia Saudita, l'ISIS rivendica l'attentato nella moschea sciita, 20 i morti. Elezioni regionali, si accende la campagna, Renzi e Berlusconi in Campania, Salvini attacca sulla leadership. Pensioni, Padoan contro la Consulta, dice nella sentenza doveva valutare l'impatto sui conti pubblici. Lo studente morto in gita, crescono i dubbi, non era ubriaco e nessuna traccia di lassativi. Palermo ricorda Falcone, studenti in piazza contro la mafia, cerimonia nell'aula bunker con Mattarella, 23 anni da Capaci. Salone del libro, il presidente della fondazione Rolando Picchioni è stato indagato dalla procura di Torino per peculato, lui si dice sorpreso e sereno. Unioni gay, storico in Irlanda, voto sui matrimoni omosessuali, in 3 milioni alle urne per il referendum, domani ci sarà lo scrutinio. E per il ciclismo, al Giro, volata sotto la pioggia, Fabio Aru è la nuova maglia rosa. E quindi partiamo dalla bocciatura dell'Unione Europea su un provvedimento che riguarda l'IVA. La Commissione Europea si è opposta alla richiesta dell'Italia di una deroga sull'estensione dell'inversione contabile sulla grande distribuzione. La clausola di salvaguardia ora prevederebbe un aumento automatico delle accise sui carburanti, però il governo si è impegnato a varare delle misure alternative. Poi cercheremo di capire in che cosa consista questa bocciatura, che cos'è questa inversione contabile e anche se ha un impatto poi sui conti pubblici. E poi sull'arresto del giovane marocchino, oggi c'è stata l'udienza in carcere per il giovane sospettato di aver avuto un ruolo nella strage del Bardo. Con il passare delle ore però, già l'avevamo visto ieri, aumentano i dubbi sul suo coinvolgimento. Entreremo più nel dettaglio poi più tardi con Effetto Notte. Intanto sull'immigrazione, secondo la proposta legislativa alla quale sta lavorando l'Unione Europea, dovrebbero essere in totale 40.000 i richiedenti asilo da trasferire dall'Italia alla Grecia negli altri paesi europei. Di questi circa il 60% dovrebbe andare via dall'Italia, e capiremo effettivamente se è una proposta, se sono numeri più o meno definitivi, come sarà possibile anche individuare e trasportare questi migranti dall'Italia in altri paesi. I riflettori dell'Unione Europea però sono anche naturalmente puntati sempre sulla Grecia, ora al vertice di Riga in Lettonia. Ma un'intesa stavolta potrebbe essere raggiunta entro l'inizio di giugno. Il summit de Riga lascia in eredità discrete dosi di ottimismo, soprattutto dopo l'incontro tra il premier greco Alexis Tsipras e il presidente della Commissione europea Juncker. Fonti elleniche parlano di progressi a livello tecnico e di un'intesa, quantomeno su alcuni punti, attesa a breve. Anche se viene riconosciuto ci sono aree dove le posizioni restano distanti. Facile immaginare come i nodi più critici siano ancora le riforme su lavoro e pensioni. Non a caso proprio uno dei principali attori in gioco, il direttore dell'FMI, Christine Lagarde, parla di molto lavoro da fare con un approccio ampio e, sottolinea, non sbrigativo. Il prossimo rimborso da 300 milioni di euro dovuto da Atene al fondo il 5 giugno rischia di provocare, lo ricordiamo, il default del paese. A confondere le acque intanto ci ha pensato il ministro delle finanze tedesco Schäuble. Secondo quanto riferito dall'agenzia Bloomberg, Schäuble avrebbe in una recente riunione evocato la possibilità che Atene adotti una valuta parallela accanto all'euro qualora dovesse fallire il negoziato. Da parte sua la cancelliera Merkel ha definito costruttivo l'incontro di ieri col premier greco Tsipras. Il francese Hollande, presente al meeting, ha chiesto alla Grecia di fornire maggiori informazioni sulle riforme. La corsa contro il tempo prosegue. Prossima tappa il G7 dei ministri delle finanze a Dresda mercoledì. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore. E siamo sulla politica italiana. Confronto a distanza tra Renzi e Berlusconi in Campania. Si fronteggiano Matteo Renzi e Silvio Berlusconi, si fronteggiano in Campania, il primo dallo sfidante PD Vincenzo De Luca, il secondo dal governatore uscente di Forza Italia Stefano Caldoro. Il premier avoca a sé l'approvazione della legge anticorruzione e corre a Salerno nel feudo di De Luca. E non abbiamo vergogna a dire che siamo il paese nel quale da ieri è tornato nel sistema italiano non soltanto quel reato che è il falso in bilancio, ma ci sono pene più dure sulla corruzione, non c'è più la possibilità nei fatti della prescrizione. Ma sulle candidature del PD in Campania interviene Roberto Fico del Movimento 5 Stelle. Renzi e De Luca si contornano di candidati impresentabili, indagati, professionisti del cambio di casacca. Nel centrodestra invece Berlusconi dice no alle primarie perché manipolabili, attacca il leader della Lega Matteo Salvini perché non si governa il paese con la destra provocatoria e sulla sua successione Chiosa. E soltanto nelle monarchie il leader, cioè il re, sceglie il suo successore. In democrazia il successore viene scelto dal popolo. Ma dalla Lega Salvini risponde che non c'è alcun diritto di sangue, mentre denuncia il caso del senegalese che ha ferito il carabiniere a Genova. Fratelli d'Italia invece insorge contro la decisione della provincia di Bolzano di esporre la bandiera tricolore a mezz'asta per i 100 anni dalla prima guerra mondiale. Elisabetta Fiorito, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma. E Renzi in Campania ha incontrato anche una delegazione di sindacalisti e il sindaco di Carinaro per l'avvertenza Whirlpool che diventa sempre più spinosa. Lo sciopero, indetto dai sindacati FIM, FIOM e UIL, si terrà il 12 giugno e durerà 8 ore. Lo stesso giorno ci sarà una manifestazione a Varese. I lavoratori del gruppo Whirlpool, a quasi un anno dall'acquisizione della Indesit, contestano il programma di licenziamenti annunciato dalla multinazionale. La società, che aveva già presentato un piano di riorganizzazione con 1.350 esuberi, ora li ha aumentati a 2.060, un terzo della forza lavoro italiana. Situazione inaccettabile secondo Marco Bentivogli, segretario generale FIM CISL, intervistato Effetto Giorno. I negoziati si aprono e si cerca di andare a marcia avanti verso convergenze che portino agli accordi. Whirlpool è andata avanti con la retromarcia, aumentando da 3 a 4 le fabbriche da chiudere. Il premier Renzi, in tour elettorale in Campania, ha incontrato alcuni rappresentanti della sede Whirlpool di Carinaro, una delle quattro che rischia di chiudere, e si è impegnato a mantenere l'attività produttiva anche in assenza della società americana. Valeria Grandi, Radio 24, il Sole 24 Ore. Spostiamoci all'estero con la lotta all'ISIS. Dalle ultime informazioni non risultano esserci attività sul sito archeologico di Palmira, di cui ci siamo molto occupati questi giorni. Questo l'ha precisato Karim Endili, responsabile dell'UNESCO per il mondo arabo. Per Endili la situazione a Palmira sembra tornata alla calma dopo il ritiro dell'esercito siriano. L'Italia è preoccupata comunque per l'avanzata, mentre arriva la notizia del sequestro di un altro religioso. Sono arrivati in moto, armati, hanno preso padre Jacques Mourad e il diacono Boutrous Anna e li hanno obbligati a salire in macchina e guidare fino a una destinazione sconosciuta. È avvenuto così il rapimento di padre Mourad, priore del monastero di Marelian, in Siria, 60 km a sud-est di Homs. Si tratta della stessa comunità di padre Paolo Dall'Oglio, il gesuita di 59 anni rapito il 29 luglio del 2013 mentre si trovava a Raqqa, la città controllata dagli jihadisti dello Stato islamico. islamico. Il sequestro sarebbe avvenuto tra il 18 e il 21 maggio. La notizia è stata confermata dall'arcidiocesi siro-cattolica di Homs. Fonti locali consultate ipotizzano che dietro il rapimento ci siano gruppi salafiti presenti nella zona, anche se finora nessuno ha rivendicato il sequestro. Padre Murad era uno di quei religiosi, come padre Dall'Oglio, che ha sempre sostenuto la riconciliazione nazionale e il dialogo. Il suo monastero era diventato un luogo di accoglienza, soprattutto dei musulmani in fuga, e qualche ora prima del sequestro padre Murad si era rifiutato di abbandonare il monastero di fronte all'avanzata dell'ISIS. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sempre il sedicente Stato Islamico, l'ISIS appunto, ha rivendicato l'attentato suicida compiuto nell'est dell'Arabia Saudita contro una moschea sciita, dove sono morte 19 persone, secondo i bilanci ufficiali, 100 i feriti, ma non sono il bilancio non è ancora definitivo. In Yemen invece sono 1037 i civili, tra cui 234 bambini, morti nel paese a partire dal 26 marzo nei bombardamenti della coalizione araba nei combattimenti a terra tra forze regolari da un lato e dall'altro ribelli sciiti, Houthi e forze fedeli all'ex presidente Abdullah Saleh. Lo ha reso noto oggi Cecil Pulli, che è la portavoce dell'Alto Commissariato dell'ONU per i diritti umani. A proposito di diritti umani, la Russia, il comune di Mosca, dice no al Gay Pride che gli attivisti per la difesa dei diritti di omosessuali vogliono tenere lì a Mosca il 30 maggio. Abbiamo avvertito gli organizzatori, ha detto il portavoce del sindaco, che la manifestazione non sarà autorizzata e dei rischi a cui vanno incontro se ignorano il divieto. E a fronte di questo divieto invece cosa succede in Irlanda? C'è uno storico voto oggi sulle nozze gay in 3 milioni alle urne aperte fino alle 22, quindi fino alle 22 di stasera, per la storica consultazione che modifica la Costituzione per l'introduzione dei matrimoni omosessuali. È il primo paese al mondo che usa un referendum per questo, favoriti sì, anche gli immigrati tornano per votare, gli scrutini ci saranno domani mattina a poche ore dall'esito. E ora di nuovo in Italia, il presidente della Fondazione per il Libro, del Salone del Libro, insomma, di Torino, Rolando Picchioni, è stato indagato dalla Procura di Torino. L'ipotesi del reato è peculato, oggi la sede della Fondazione è stata perquisita da carabinieri e finanzieri. Di fronte all'enormità dell'addebito mi sento sbalordito, dice Picchioni, ma altrettanto assolutamente sereno. E allora sentiamo il suo legale Giampaolo Zancan al microfono di Alessandra Tedesco. Rolando Picchioni è del tutto estraneo all'indagine iniziata dalla Procura della Repubblica, tra l'altro senza alcun riscontro probatorio anche all'interno del decreto di perquisizione, e quindi si dichiara a disposizione della Procura della Repubblica per ogni chiarimento, ma in questo momento non è in grado di precisare neanche su che cosa questa indagine si fondi, insomma. Quindi non è chiara neanche l'accusa, a suo modo di vedere? No, non ti dice sulla base di che cosa si sospetta ci siano delle fatture fasulle che abbiano consentito il peculato, non dice quali sono le fonti di prova, e quindi non lo so io. Conferma però la perquisizione della sede della Fondazione? Confermo la perquisizione e confermo l'assoluta estraneità a qualsivoglia fatto illecito. Quali saranno i vostri prossimi passi? Il nostro prossimo passo è andare lunedì mattina al pubblico ministero e dichiararci a disposizione se ha necessità di chiarimento. Per chiudere il ciclismo, Fabio Aru è la nuova maglia rosa grazie al 34 secondi di vantaggio presi su Contador, che lo precedeva in classifica di 17 secondi. Ora, prima di aggiornare chi sta viaggiando, e venerdì sono molti a viaggiare a quest'ora, volevo leggere brevemente alcuni dei vostri messaggi, sia al 349-238-6666, questo è il numero per gli sms, sia sulla pagina di Facebook di Effetto Nota, che è sempre lì per voi in qualsiasi momento, qualsiasi giorno, in qualsiasi ora. Dice un ascoltatore o ascoltatrice: sono parecchi gli stati che non vogliono i cosiddetti migranti, sarà un impoverimento della società, il nuovo comunismo europeo, dice un ascoltatore Andrea. Matteo Renzi: grazie a lui gli alcolisti del PD hanno un nome e cognome. Clotilde invece scrive: Salvini mi dà l'idea del corvo in attesa di una carcassa sempre pronto a fiondarsi, che tristezza. Questo perché vi citavo questa frase di Salvini che dice: il 31 maggio non è un voto ma un referendum tra chi vuole l'immigrazione e chi non la vuole. Vi chiedo, siete d'accordo su questa interpretazione delle elezioni che ci saranno il 31 maggio? Ilaria scrive: io credo che Salvini la butti sul referendum, parola forte dice lei, per scongiurare il probabile astensionismo di un elettorato di destra deluso e disorientato. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci qui, allora ecco alcuni vostri messaggi stanno arrivando adesso, ma direi prima di tutto di ricordare quali sono le notizie più importanti e tra poco parleremo, faremo un punto delle notizie politiche di questa settimana e cercheremo di capire anche questa ennesima bocciatura che è arrivata dall'Unione Europea nei confronti dell'Italia sull'IVA, esattamente che cosa significa e che impatto possa avere. Quali sono le altre notizie più importanti? Giovane marocchino arrestato per la strage del Bardo è stato interrogato oggi in carcere, nega tutto, anzi chiede perché sono qui, si oppone all'estradizione in Tunisia e intanto gli inquirenti fanno verifiche sul suo ruolo. Si accende la campagna elettorale per le regionali che ci saranno il 31 maggio, Renzi e l'ex cavaliere in Campania, il premier contro la minoranza Dem, Salvini intanto attacca sulla leadership, attacca anche Berlusconi. L'ISIS avanza sull'Iraq, Gentiloni, ministro degli esteri, dice bisogna verificare la strategia in Siria. Intanto è stato rapito un altro sacerdote della stessa comunità di Padre dell'Olio di cui non si sa più nulla. Pensioni Padoan contro la Consulta, dice nella sua sentenza doveva valutare i costi. Palermo ricorda Falcone a 23 anni da Capaci e poi questo referendum storico in Irlanda sui matrimoni gay. E un'altra notizia, l'erosione costiera mangia la metà delle spiagge italiane, questo è un allarme di Legambiente contro la mala gestione dei litorali. Adesso facciamo il punto sulle tante questioni, le elezioni regionali, quindi la campagna che la sua ultima settimana quindi diventa più infervorata, ci sarà, parleremo di Renzi, di Berlusconi, di Salvini, di altre questioni, ma prima di tutto con Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore, che saluto. Ciao Fabrizio. Ciao, buonasera. Chiariamo questa questione un po' criptica per i non addetti. Sì. Allora, la notizia è questa, l'Unione Europea boccia la manovra sull'IVA, c'è il rischio di un buco da 700 milioni, ma il Ministero assicura non scatterà l'aumento della benzina. Intanto, questa questione della inversione del reverse charge che cos'è esattamente? Capisco che come dire, è un'operazione tecnica, però doveva dare un gettito di 738 milioni per le casse dello Stato, per cui si apre sicuramente un problema per le casse dello Stato. Si tratta in sostanza del modo in cui viene, attraverso il quale viene pagata l'IVA. Con il reverse charge l'IVA viene pagata da chi compra e non da chi vende. Con questo meccanismo in sostanza, anche piuttosto banale in realtà, ma lo Stato prevedeva di recuperare evasione fiscale, frodi fiscali che venivano compiute sull'IVA per una somma appunto di 738 milioni. Ora evidentemente quindi questo afflusso di recupero dell'evasione viene meno e quindi bisogna trovare delle partite alternative per coprire questo deficit ulteriore che si crea. Quindi l'Unione Europea non approva questa manovra. Senti, quindi dicevi che impatto effettivo potrebbe avere sui conti pubblici, anche perché c'è il rischio, vedevo i titoli, il rischio di aumento della benzina, ma il governo rassicura, che impatto ci sarebbe quindi? In realtà questa clausola sul reverse charge era stata coperta nel caso di un'eventuale bocciatura da parte dell'Unione Europea, che era tra le ipotesi che il governo sapeva benissimo che erano sul campo, era stata coperta con una clausola di salvaguardia. Le clausole di salvaguardia ormai abbiamo imparato a conoscerle, il governo le mette nelle leggi lì dove un certo flusso non è sicuro, un certo flusso di risorse non è sicuro, e allora ti cauteli con una clausola di salvaguardia. Molto spesso le clausole di salvaguardia sono messe appunto per far passare certe norme, ma poi il governo non ha nessuna intenzione di farle scattare e credo che questo sia il caso. In questo caso la clausola di salvaguardia prevedeva un aumento delle accise sulla benzina e Renzi tutto vuole fare tranne che far aumentare l'accisa sulla benzina, quindi deve trovare però delle poste alternative per coprire questi 738 milioni che se no si traducono appunto in un aumento della benzina. Ora come farà? Qui la ragioneria sta lavorando, c'è una certa fiducia nel trovare questa cifra che in effetti non è enorme, il buco sulle pensioni è di dimensioni molto molto più ampie, però è chiaro che in corso d'anno non è facile, tra l'altro il cosiddetto tesoretto, cioè il differenziale tra il deficit tendenziale e quello programmatico, oramai abbiamo imparato è stato utilizzato per le pensioni, quindi quello non è più disponibile. Che cosa può fare il governo? Mi sembra che la ragioneria stia lavorando su un'ipotesi di micro tagli di spesa, su una manutenzione delle spese in corso d'anno per cercare di recuperare appunto lì dove alcune spese stanno tirando di meno, di recuperare queste risorse, oppure un'altra ipotesi che si fa è anche quella di cifrare il rientro dei capitali. Noi sappiamo che il rientro dei capitali per ora il governo ha previsto un introito zero, ha messo a bilancio un introito zero, è chiaro che dal rientro dei capitali invece alcune risorse affluiranno. Il problema lì è che Bruxelles ancora una volta potrebbe porre una sua obiezione, perché tu non puoi mettere a bilancio un'ipotesi di entrate, un'ipotesi di future entrate, e quindi se ricorre a questa copertura ancora una volta potrebbe incorrere una bocciatura di Bruxelles. Insomma, il nodo è complicato, ma la ragioneria, noi li abbiamo sentiti oggi, hanno una certa fiducia di riuscire a coprire appunto una cifra che comunque non è enorme. Meno male, almeno quella. Fabrizio, adesso andiamo invece sulla campagna elettorale, le elezioni regionali, abbiamo detto si vota il 31 maggio, siamo nel vivo perché questa è l'ultima settimana di campagna elettorale e tutti e due i leader, diciamo, considerati principali, a parte Salvini in questo momento, Grillo, Renzi e l'ex cavaliere Berlusconi erano in campagna a Renzi a Salerno per la campagna elettorale di De Luca. Sentiamo qualche passaggio, il primo. E non abbiamo vergogna a dire che siamo il paese nel quale da ieri è tornata, grazie al lavoro dei nostri parlamentari, ce ne sono tanti qui, è tornato nel sistema italiano non soltanto quel reato che è il falso in bilancio, che era stato tolto da altri, o perlomeno parzialmente tolto da altri, ma ci sono pene più dure sulla corruzione, non c'è più la possibilità nei fatti della prescrizione, come pure abbiamo rimesso l'autoriciclaggio, anzi l'abbiamo messo per la prima volta. Perché da questo punto di vista lezioni sulla legalità noi non le vogliamo prendere. Diciamo, Renzi lo sottolinea in particolare che ieri è passata definitivamente la legge sull'anticorruzione, anche perché sappiamo che De Luca, piuttosto, seppur amatissimo in campagna, in particolare a Salerno, di cui è sindaco, considerato un po' un impresentabile, insomma, anche con altri che sono nella sua lista, quindi ha voluto sottolineare, guardate che il nostro governo fa queste cose. Sì, no, più che altro sono molto sotto osservazione, giustamente, alcune liste collegate alla lista di De Luca, non è tanto appunto la lista del PD strettamente, ma sono le liste collegate a De Luca che in modo diretto supportano la candidatura di De Luca. Ma è chiaro che Renzi, come dire, vendendosi questo provvedimento sulla corruzione, che in effetti è una riforma importante, ricordiamo reintroduce il falso in bilancio, in qualche modo cerca di spostare l'attenzione dalla polemica appunto sulle liste che accompagnano De Luca. Questo concentrarsi di campagna elettorale a Napoli, tra Napoli e Salerno, comunque in campagna, non è casuale, perché la campagna rischia di diventare una regione davvero decisiva per il giudizio su come saranno andate queste elezioni. Sono 7 regioni dove si vota, in una mi pare di capire che il PD ha scarsissime chance di vincere, Piemonte? Che è il Veneto di Zaia e Moretti. Zaia dovrebbe essere molto forte e dato nei sondaggi molto avanti, a questo punto si è 6-1, insomma il PD nelle altre regioni dovrebbe essere più forte, però in realtà rischia in alcune regioni, rischia in Campania, rischia in Liguria, rischia nelle Marche. Per cui per Renzi, diciamo, potrebbe essere meno facile di quanto alcune previsioni fino a qualche tempo fa davano. Poi lancia Renzi anche una frecciata a Berlusconi, perché c'era molta polemica all'interno del centrodestra, soprattutto tra Berlusconi e Salvini, sulla questione della leadership, e Berlusconi dice, detto poi lo facciamo sentire dopo a proposito di chi dovrà guidare questo nuovo partito che dovrebbe nascere, sentiamo Renzi che frecciata gli lancia. Perché poi, come stanno attenti alle discussioni del PD, è straordinario. Capisco che essendo l'unico partito che fa le primarie e che ha un minimo di democrazia, anzi un massimo di democrazia interna, il PD, diciamo, fa da punto di riferimento. Io non vedo l'ora di assistere alle primarie dall'altra parte per verificare come il grado di democrazia interna diventerà maggiorenne in Italia, ma lasciamo stare. Però Berlusconi, quindi, dicevo, annuncia questo nuovo partito, ma diceva ieri: non sarò però io il leader. Ascoltiamolo. Soltanto nelle monarchie il leader, cioè il re, sceglie il suo successore. In democrazia il successore viene scelto dal popolo. Ecco, dice il popolo, Fabrizio Forché. Poi però ieri ha anche detto: la storia insegna che grandi leader come De Gasperi, Craxi e Berlusconi non sono mai passati per le primarie. Quindi chi lo sceglie, questo leader? secondo me il popolo che ha in mente Berlusconi è lui, insomma, ho l'impressione che è vero che sono nelle monarchie, ma insomma la successione di Berlusconi perlomeno nell'immaginario di Berlusconi sarà decisa ancora da Berlusconi, sempre che Berlusconi abbia alla fine di questa parabola, lunghissima parabola della sua vita politica, conservi però una forza politica da poterlo fare, perché insomma nel centrodestra oramai l'erosione da parte della Lega, da parte di Salvini è davvero molto forte, per cui se continua, e io ho l'impressione che con le regionali effettivamente si vedrà un arretramento molto molto forte, non è solo una mia impressione ovviamente, lo dicono i sondaggi, forse sarà ancora più forte quanto dicono i sondaggi. Allora il giorno dopo le elezioni effettivamente la forza di Berlusconi rischia di essere abbastanza debole nell'indicare il futuro leader del centrodestra, ed è molto probabile che il campo sarà oramai occupato da Salvini in maniera strutturale. Salvini, che ha detto poco fa in serata, ha detto in un suo comizio, Berlusconi dice che scelgo io il mio erede, ma non è la regina Elisabetta, quindi ha detto che non è la regina Elisabetta, e poi ha detto questa cosa, che il 31 maggio non è un voto ma un referendum tra chi vuole l'immigrazione e chi non la vuole. Beh, sì, insomma, Salvini cavalca i suoi cavalli di battaglia, insomma, oramai ci si avvicina al voto, è normale che Salvini punti la sua campagna su quello che è il tema di fondo che divide oggi, che in realtà appunto spinge oggi un po' i partiti populisti in tutta Europa, insomma, l'immigrazione è quella su cui la Lega ha creato il suo consenso, su cui Le Pen crea il suo consenso in Francia, insomma. Non ci possiamo sorprendere, ho l'impressione che comunque Renzi, infatti Renzi gigioneggia un poco appunto su questa competizione di leadership a destra, è la situazione più comoda che possa avere Renzi, finché nel centrodestra c'è un leader oramai in declino come Berlusconi e c'è un leader forte in ascesa ma comunque legato a messaggi che non possono in realtà sfondare del tutto nell'elettorato moderato, rischia sempre di restare comunque un bagaglio elettorale minoritario, mai diventare una forza davvero di governo nel centrodestra. Allora per Renzi forse questa è davvero la situazione ideale. Poi non ideale invece la questione delle pensioni, che sappiamo si è abbattuta sul governo Renzi, che era stata creata da governi precedenti, e oggi il ministro dell'economia Padoan ha criticato la Corte Costituzionale, la sua sentenza, dicendo la Consulta doveva valutare i costi di questa sua sentenza. È una cosa che aveva detto anche qui proprio effetto notte giorni fa Sabino Cassese, costituzionalista e giudice emerito della Corte Costituzionale. Sentiamo cosa ha detto, un breve passaggio. Diciamo che c'erano altre opzioni aperte e che la mia preferenza sarebbe andata per un'opzione che avesse creato meno difficoltà in una situazione economica così difficile. Si sarebbe comportato diversamente quindi lei, giudice Cassese? Avrei optato per un'altra soluzione, certo. E così l'ha ripresa oggi questa cosa, diciamo, Padoan, no? Fabrizio Forché? Ah sì, insomma, noi l'avevamo scritto anche su Sole 24 Ore, in realtà senza entrare poi nel merito di una sentenza che va comunque presa con grandissimo rispetto, la Corte Costituzionale va quanto tale presa con immenso rispetto, perché guai, diciamo, a delegittimare anche istituzioni così importanti, però è vero quello che dice Cassese, è vero quello che dice il Ministro, davanti a un buco così enorme che si creava nel conto dello Stato forse una riflessione ulteriore poteva essere fatta, e lo dice il fatto stesso che la Corte si è divisa 6-6, 6 giudici erano a favore, 6 giudici erano contro, evidentemente non c'era un principio giuridico, una tutela di diritti così assoluti da dover garantire, c'era un'opinabilità in questa decisione, allora nel momento in cui poi c'era un buco di 20 miliardi nel bilancio pubblico forse si poteva trovare delle soluzioni alternative. Poi sempre sulle pensioni c'è stata la proposta di un'uscita flessibile da parte di Renzi, l'intenzione di cambiare la legge Fornero dovrebbe succedere, ma più in là avremo modo di ragionarne, però Fabrizio Forché. Poi c'è il pasticciaccio del giovane marocchino di cui parleremo però più tardi, vuoi fare proprio un commento negli ultimi 40 secondi che restano? Ma a me mi verrebbe da dire liberatelo, però non conosco poi, ma insomma da quello che abbiamo letto sembra una cosa effettivamente un po' improvvisata. Un bel granchio. Sì, va bene, grazie Fabrizio Forché, intanto buon fine settimana. Grazie. Ciao Fabrizio. Ciao. Direi di prenderci una pausa di ricreazione adesso. Voi potete continuare con le vostre riflessioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte o anche i messaggi al 349-238-6666 su questa campagna elettorale e anche sul tema che adesso ho annunciato che tratteremo tra pochissimo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, Roberto Giordano sempre con voi, con me anche i vostri messaggi, la vostra interazione attraverso la pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666 per gli sms. Andrea scrive: Padoan ha dato via libera a spese senza coperture, come avevano fatto notare il vostro quotidiano la contabilità del Senato, infatti come diceva prima Fabrizio Forché. Sebastiano scrive: Salvini ha imparato da Renzi la strategia, e cioè semplificare, per questo che Salvini farà il botto alle regionali. Ma tra le notizie più importanti abbiamo sentito che l'Unione Europea boccia la manovra su l'IVA, si rischia un buco da 700 milioni, poi il marocchino arrestato per la strage del Bardo continua a ribadire la sua innocenza dal carcere, ne parleremo tra poco. Immigrazione, con il piano dell'Unione Europea sulla redistribuzione dei migranti che prevede che in 24.000 dovranno lasciare l'Italia. E poi abbiamo parlato poco fa della campagna per le elezioni regionali del 31 maggio che entra nel vivo con Renzi e Berlusconi in campagna. E ora ci soffermiamo quindi sulla vicenda piuttosto oscura del giovane marocchino accusato di essere coinvolto nell'attentato di Tunisi al Museo del Bardo, vi ricordate, lo scorso 18 marzo, con 24 vittime, tra cui 4 italiani. È in carcere, nel carcere di San Vittore, anzi oggi è stato poi spostato in quello di Opera, sempre nel milanese. È comparso davanti al magistrato per udienza e interrogatorio per l'estradizione, lui però continua a dire: perché sono qui, un errore, non mi trovavo lì e non mi consegnate alla Tunisia. Tra l'altro c'è anche la pena di morte. Ne parliamo con Fiorenza Sarzanini, caporedattrice del Corriere della Sera. Ciao Fiorenza. Ciao, buonasera. Come se ne può venire a capo di questa vicenda? Intanto allora la Procura di Milano ha detto che in quei giorni non solo i suoi insegnanti della scuola di Trezzano sul Naviglio, dove segue anche con la madre un corso di lingua italiana, hanno confermato che lui c'era, almeno il giorno prima del 18 marzo e il giorno dopo, ma per la Procura anche il 18 stesso. Era qui in Italia. Allora lui certamente era in Italia, questo ormai è accertato, e quindi il problema è proprio questo, cioè capire se si tratta di un errore di persona, come potrebbe essere, o se invece la Tunisia in realtà sta facendo diverse contestazioni, cioè la Tunisia in realtà lo accusa semplicemente di essere un fiancheggiatore dall'Italia, che però è una cosa abbastanza strana e comunque poco credibile, visto che si tratta di un giovane di 22 anni che sarebbe entrato in Italia già al momento della pianificazione dell'attentato, quindi sinceramente appunto appare piuttosto strano che possa essere lui un fiancheggiatore dall'Italia. Mm. È possibile che ci sia stato uno scambio di persona, adesso si parla di possibili scambi, perché sono state fatte vedere due foto, una foto di un altro uomo accanto al suo, che forse ha della somiglianza ma è decisamente più vecchio, con i baffi, la barba. È possibile che ci sia stato sì un errore, che ci sia stato proprio all'origine uno scambio di persona, questo è il sospetto, e appunto per questo in questi 40 giorni dovranno essere fatte tutte le verifiche in modo da fugare ogni dubbio, perché come dicevate voi, per consegnarlo alla Tunisia, poi comunque quello è un paese dove c'è la pena di morte. Allora è vero che si mette la clausola in cui non c'è alcuna possibilità che poi venga eseguita l'eventuale condanna con la pena di morte, però comunque questo è il vero poi problema, il vero ostacolo a un'eventuale consegna. Oggi c'è stata l'udienza, interrogatorio per tanto confermare il fermo e per l'estradizione, per cominciare anche il procedimento? Questo è stato solo l'inizio del procedimento, ora ci sono 40 giorni per verificare tutte le carte, diciamo, per guardare il fascicolo della Tunisia e verificare tutte le carte. Sentiamo l'avvocata Silvia Fiorentino che cosa ha detto appena uscita da questa udienza. Sta bene compatibilmente con la situazione, sta bene come starei io se fossi portata in carcere e accusata di terrorismo internazionale. Respinge ogni addebito e la versione dei fatti che fornisce è assolutamente coerente con quella che ha già ampiamente dato la sua famiglia. Per chiudere, Fiorenza, tu che idea ti sei fatta? Da quello che non è lui. Che non è lui. un gran buco nell'acqua. Penso proprio di sì. E comunque ci sarebbe sarebbe stata necessaria maggiore cautela prima di annunciare di aver preso un pericoloso terrorista. Perché abbiamo sentito anche Alfano con grande enfasi in Parlamento. Grazie intanto Fiorenza Sarzanini, vedremo le indagini come procedono. Ciao Fiorenza. Ora invece il piano europeo sull'immigrazione, cominciano a emergere i primi numeri, no? Sapete che dopo tanto tempo che si diceva l'Unione Europea non fa nulla, adesso si cerca di elaborare questo piano di redistribuzione dei migranti per aiutare naturalmente l'Italia e anche la Grecia, insomma gli approdi, i primi approdi dei barconi a gestire questa emergenza. E tra i primi numeri emersi ci sono questi: dovrebbero essere in totale 40.000 i richiedenti asilo da trasferire dall'Italia e dalla Grecia verso altri paesi europei. E di questi circa il 60% dovrebbe andare via dall'Italia, quindi 24.000. Ne parliamo con Matteo Villa, ricercatore dell'ISPI per l'area Europa. Buonasera Matteo Villa. Buonasera a voi. Buonasera a voi. Sono numeri fondati questi? Ma dunque, allora, innanzitutto, so di avere poco tempo, secondo me bisognerebbe spiegare velocemente come funziona il riparto delle competenze sulle richiedenti asilo. Dunque, in questo momento si applica almeno dal 2003 il sistema di Dublino 2. Questo significa che ogni volta che arriva un richiedente asilo si decide sulla base di dove, dello stato in cui arriva, lo stato competente a giudicare sulla richiesta del suo asilo. In questo caso significa che di fronte a un'emergenza di migrazione come quella attuale sono sotto pressione i paesi come l'Italia e la Grecia che sono sulle coste, sulle frontiere dell'Unione Europea. E quindi la Commissione sta cercando di agire, sta cercando un meccanismo di deroga temporanea a quella di Dublino 2, al Dublino 2 per far fronte all'emergenza migranti. Per farlo ovviamente chiede solidarietà a quegli stati che non stanno alla frontiera dell'Unione ma sono un po' più all'interno. In questo caso fino a settimana scorsa non c'erano dettagli, adesso emerge questo numero di 40.000. È molto interessante secondo me perché si tratta, all'inizio la Commissione diceva che voleva dare ripartire questi migranti richiedenti asilo secondo certe percentuali e aveva tirato fuori qualche criterio un po' burocratico. Il PIL, il prodotto interno lordo, il livello di occupazione. Esattamente. Dunque, se seguissimo questi criteri, io ho cercato di vedere un attimo questo, per fare un paio di esempi. Se seguissimo questi criteri, intanto, vabbè, sì, è vero, all'Italia verrebbero tolti 16.000 richiedenti asilo di quest'anno, che è circa il 40%. Degli arrivi attuali, però se la situazione continuasse come l'anno scorso, 170.000 arrivi sarebbero una piccola goccia nel mare. In ogni caso si tratterebbe di un momento di solidarietà europeo che non c'è mai stato. Per la Grecia andrebbe meglio perché si tratta dell'80% del totale, dei 14.000 rispetto ai 20.000 arrivati. Tuttavia è importante immaginare che a rimetterci ovviamente sarebbero gli stati più grandi dell'Unione. La Germania, immagino. La Germania, la Francia e la Spagna. Secondo i criteri utilizzati dalla Commissione proposti il 13, venivano fuori certe percentuali. La Germania si prendeva il 18% dei migranti da riallocare in situazioni di emergenza. Dunque, significa, facendo un piccolo calcolo, se è vero che la quota è 40.000, che la Germania se ne prenderebbe 7.000. Non credo sarebbero molto contenti. Non si tratta comunque di un grandissimo numero, un altissimo numero, perché la Germania l'anno scorso ha ricevuto 200.000 richieste di asilo, quindi è un po' una goccia nel mare anche per loro. Tuttavia la Germania è anche il primo paese quanto richieste d'asilo dell'Unione Europea e quindi si troverebbe come richiesta dell'Unione Europea, ma poi della Commissione, organismo burocratico, e si sa che di questi tempi con il grande euroscetticismo e antieuropeismo che c'è non è vista molto bene l'imposizione all'alto di una regola, di una richiesta di solidarietà. Si tratterebbe di chiedere un maggior sforzo proprio a quei paesi che adesso ottengono, insomma, ricevono e processano maggiori richieste d'asilo. È chiaro che si profila una battaglia politica molto importante, quindi. Decisamente, anche perché la Francia ha cominciato a ritirarsi, che sembrava all'inizio voler dare una mano all'Italia, poi sappiamo quella pensa la Gran Bretagna e anche altri stati dell'est. Insomma, ne vedremo delle belle e capiremo anche più in là come poi saranno proprio anche fisicamente individuati e trasportati e portati via dall'Italia e dalla Grecia tutto questo numero così alto di migranti. Intanto grazie Matteo Villa e buon fine settimana. Grazie. Grazie a lei. Viabilità. Sport, le notizie in 60 minuti. E adesso ve le ricordo in pochi secondi le notizie principali. Con l'Unione Europea abbiamo sentito che boccia la manovra sull'IVA in Italia e c'è un rischio di un buco da 700 milioni sui conti italiani, sui conti pubblici, ma il Ministero dell'Economia assicura non scatterà l'aumento della benzina. E poi il giovane marocchino arrestato perché accusato di aver partecipato alla strage al Museo di Tunisi è stato interrogato oggi in carcere, nega tutto, anzi chiede perché sono qui, è stato un errore, si oppone all'estradizione, intanto ci sono verifiche sul suo ruolo. E poi la campagna elettorale per il 31 maggio per le regionali che si accende con Renzi e l'ex cavaliere in Campania. Il premier intanto tuona ogni tanto contro la minoranza, dicendo che prima insomma perdevano e poi si chiedevano perché avevano perso. Intanto Salvini attacca sul tema della leadership. L'ISIS avanza sull'Iraq, il ministro degli esteri Gentiloni dice che bisogna verificare, bisogna rivedere insomma la strategia in Siria. Pensioni, Padoan contro la Consulta perché dice che con la sua sentenza doveva valutare i costi che avrebbe avuto a Palermo dopo a distanza di 23 anni da Capaci, ricordato il giudice Falcone. E poi questa voto storico, un referendum in Irlanda sui matrimoni gay, domani dovrebbe esserci lo scrutinio e i primi risultati. Europa 24 notte. Johannesburg, la città di Johannesburg è una delle quattro aree metropolitane africane che per migliorare la propria gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici ha scelto di partecipare al progetto EWIT finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma Horizon 2020 ed elaborato da Remedia, sistema collettivo italiano no profit per la gestione ecosostenibile appunto dei rifiuti elettrici ed elettronici. Linda Godfrey è ricercatrice dell'EXIR, Consiglio di Ricerca Scientifica e Industriale legato al Ministero Sudafricano della Ricerca Scientifica. Si occupa in particolare di rifiuti ed è particolarmente contenta che il suo paese abbia aderito al progetto EWIT, un progetto elaborato in Italia che vuole diffondere le buone pratiche di raccolta dei RAE esistenti in Europa attraverso il gemellaggio di città europee e città africane. Godfrey ci scrive da Johannesburg, che sarà gemellata con Firenze. L'idea del progetto EWIT nacque nel 2013 durante un incontro a cui io stessa presi parte fra Unione Europea e Unione Africana sul tema della gestione dei rifiuti. Quegli incontri si sono tradotti poi nell'agenda comune di gestione dei rifiuti siglata da Europa ed Africa nel 2014. In questo contesto il progetto EWIT è una splendida opportunità concreta per rafforzare la collaborazione fra i due continenti siglata nell'agenda del 2014. Gli ultimi dati sul Sudafrica, spiega ancora, risalgono al 2011, quando si recuperava solo l'11% dei RAE, per poi inviarli quasi interamente all'estero per la separazione dei componenti e il recupero dei metalli pregiati che contengono. Non ci sono dati precisi su quanto accaduto negli ultimi 3 anni, ma, spiega Danilo Bonato, direttore generale di Remedia che coordina il progetto, non c'è tempo da perdere. Il cambiamento degli stili di vita e delle abitudini di consumo della classe media della popolazione africana sta incrementando in maniera veramente esponenziale, noi non ci rendiamo conto, ma i flussi di rifiuti in generale e in particolare anche dei rifiuti elettronici, che hanno due fonti, una è quella interna, perché aumentano il numero di computer, cellulari, elettrodomestici che vengono utilizzati, consumati e gettati via, e poi c'è tutto il tema dei flussi dall'Europa e dagli Stati Uniti, quindi queste esportazioni illegali che riempiono le grandi aree metropolitane di rifiuti elettronici. Ecco allora che c'è un problema da affrontare e c'è la possibilità di aiutare a risolverlo, visto che in parte anche noi europei siamo responsabili, e da qui è nata l'idea di sviluppare un grande progetto di cooperazione per realizzare qualcosa di molto concreto. Anversa, Oporto e Vienna sono le altre 3 città europee in gioco, Choma in Zambia, Abidjan, Costa d'Avorio e Kisi in Kenya, le altre africane. L'auspicio per tutti lo riassume bene Linda Godfrey. Come ricercatore giudicherò un successo se il progetto EWIT generasse una stretta collaborazione fra esperti dei due continenti. Come cittadina dirò che il successo sarà fare uscire i RAE dalle discariche e avviarli al riuso, recupero e riciclaggio. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. E adesso è tempo di sapere che tempo farà con il nostro Paolo Corazon, che niente poco di meno è volato negli Stati Uniti alla caccia di tornado. Paolo, ti ha cacciato il tornado? Buonasera, o tu hai cacciato il tornado? Buonasera Roberta. Allora, siamo in Colorado, che fa anche rima con tornado, ma in realtà per il momento il tornado non l'abbiamo ancora incontrato. Abbiamo visto situazioni comunque molto emozionanti, diciamo il pre-tornado ci siamo visti fino ad ora, che è una situazione comunque molto interessante da un punto di vista meteorologico. Continuiamo la caccia, ora appunto ci aspetta un weekend molto movimentato, quindi contiamo, speriamo quantomeno di portare a casa il risultato. Esperienza fantastica, tra l'altro siamo gli unici, l'unico centro meteorologico italiano a provare questa emozione. Io, se posso, vi consiglio di andare su trevimeteo.com o su Facebook di Trevimeteo, il mio personale. Stiamo mettendo un po' i risultati di questa nostra ricerca e credo che ci siano cose interessanti. Allora, l'importante è sì, portare risultati, porta anche te stesso, mi raccomando, qui in Italia. Paolo Corazon, intanto da lì riesci a capire invece che tempo farà da noi? Certo, sono sempre in contatto con i nostri colleghi. Guardi, in effetti stiamo vivendo anche in Italia un momento molto, molto movimentato. La situazione piano piano andrà migliorando. Domani giornata ancora però molto instabile al nord-est e soprattutto nelle regioni centrali, dove avremo ancora molti acquazzoni e ancora un po' dappertutto temperature bassine al di sotto della media. Ma per domenica prevediamo schiarite più ampie un po' in tutta Italia, potremo godercela, diciamo, in maniera più tranquilla da nord a sud. Ma per concludere ti dico che dovremo proprio aspettare fine mese perché il tempo si metta un po' più sul bello e giugno sembra iniziare con caratteristiche più estive. Che temperatura c'è lì nel Colorado? Scusa Paolo, una curiosità. Allora guarda, viaggiamo anche qua su temperature piuttosto freschine. Siamo stati anche nel Texas, che di solito è caldo, invece eravamo sui 15 gradi. Quindi al comune mezzo gaudio. La situazione è molto simile all'Italia. Paolo, ma scusa, tu cosa fai? Vai a cavallo incontro il tornado? Come fai? Guarda, la situazione è veramente, l'atmosfera è veramente particolare, perché siamo proprio nell'America quella vera, quella del Far West, sul serio. Qua vedi cowboy vestiti con cappello, stivali, e ancora gente che va in giro a cavallo, ma davvero, E noi invece abbiamo questi SUV tutti attrezzati, all'avanguardia, e cerchiamo di avvicinarci il più possibile al tornado. Quindi la gente scappa e noi gli andiamo incontro. Scappa perché ci siete voi, secondo me. Paolo, buona avventura, ci sentiamo allora la prossima settimana. Ciao Paolo Corazon, torna indietro con la tua pelle, a tra poco.